Il progetto di grande Medio Oriente, ideato e sponsorizzato da Bush, doveva trionfalmente esordire a Rabat, in Marocco, sabato 11 dicembre. Nell'intenzione del capo della Casa Bianca, i ministri degli esteri, delle finanze dei paesi del G8 e di una ventina medio orientali nordafricani, cioè dalla Mauritania al Pakistan, invitati a questo forum dell'avvenire, avevano in agenda temi quali l'impegno in favore del progresso e della democrazia, le misure necessarie allo sviluppo economico e politico e sociale dei vari paesi, tenuto conto delle loro specificità politiche, storiche e culturali, la lotta all'analfabetismo, la formazione professionale, la concessione di microcrediti e la creazione di una banca di sviluppo. Tutto bene sulla carta, ma in pratica il forum, partito già zoppo, avendo l'Iran annunciato di non essere presente e il Libano è stato rappresentato da due funzionari governativi, si è concluso con un nulla di fatto. Le premesse per questo mezzo fallimento, l'unico risultato positivo ottenuto dagli Stati Uniti è stato quello di riconvocare un secondo incontro il prossimo anno in Bahrain, sono state le dure parole del segretario generale della Lega Araba Amru Mirza, il quale, rivolto ai rappresentanti del G8, gli ha invitati innanzitutto a ritirare le accuse rivolte all'Islam come religione e come cultura, per poi riaffermare che, senza una pace giusta tra palestinesi e israeliani e con il problema Iraq sul tappeto, era assurdo pensare di parlare di politica in termini di grande Medio Oriente. Sulle stesse posizioni, ovviamente, si sono allineati tutti gli altri paesi arabi e diversità si sono avute anche all'interno dello stesso G8. Il ministro degli esteri francese, Michel Barnier, ha espresso ufficialmente le riserve del suo paese sulla istituzionalizzazione del forum e soprattutto sulla creazione di un segretariato permanente, idea sostenuta a spada tratta da Washington e che non ha trovato invece spazio nelle conclusioni finali. Franco Chiavegatti di Reporter Associati per Amisnet Radio.